Grazie, innanzitutto ringrazio per l'invito, non ero mai stato in questo istituto e mi ha fatto piacere vedere il laboratorio di cui è responsabile Marco. Dunque, se tutto funziona, speriamo di sì, io vi parlerò in italiano, vabbè, sì, o in inglese. No, in italiano, poi sì. Le trasparenze sono in inglese, ma va bene, allora facciamo così. Allora, io vi parlerò, cercherò di portarvi a una introduzione, cercherò di non essere tecnico, anche se ci saranno molte formule, ma non spaventatevi, cerco di darvi gli elementi essenziali per quello di cui stiamo parlando oggi. Cercherò di darvi una sorta di introduzione generale a un tipo di simmetria che viene chiamata supersimmetria, di cui non si ha ancora nessuna evidenza sperimentale che sia realizzata in natura, ma nonostante questo ha alcune caratteristiche molto interessanti che le permettono, oltre a permettere di costruire un quadro teorico della fisica delle interazioni fondamentali più consistente del modello standard, di cui faremo una breve introduzione adesso, permette anche di ottenere di risolvere alcuni dei problemi tipici di questo modello standard. Quando la fisica delle particelle poi viene messa in relazione alla cosmologia, vedremo anche come la supersimmetria, anche se non è l'unico meccanismo, permette di rispondere possibilmente ad alcuni problemi aperti anche in cosmologia. Quindi, sostanzialmente, nella prima parte vedremo maggiormente gli aspetti di tipo fisica fondamentale, cioè di fisica delle particelle, di questo tipo di supersimmetria, e poi l'applicazione di questo, se avrò tempo alla fine, alla cosmologia. Allora, cominciamo innanzitutto con un grande successo. A cosa mi riferisco? Mi riferisco a quello che c'è scritto su questa trasparenza. Questa trasparenza racchiude in un'unica pagina il contenuto del modello standard che descrive le interazioni fondamentali. Cioè tutto quello che noi oggi abbiamo misurato e sappiamo descrivere delle interazioni tra le particelle elementari può essere scritto in una sola pagina. Questo è veramente un grande successo, perché questa teoria, che in fondo non è poi così molto complessa, riesce a descrivere un'infinità di fenomeni differenti in modo estremamente preciso e consistente. Facciamo però forse un passo indietro per capire meglio che cosa significa quella trasparenza. E ricordo che sostanzialmente noi vogliamo descrivere interazioni fondamentali che sappiamo essere, almeno per quanto riguarda quello che abbiamo osservato, di quattro tipi. Elettromagnetica, interazione debole, che è sostanzialmente l'interazione responsabile dei decadimenti nucleari o di altri fenomeni di decadimento, come il decadimento del muone, di altre particelle, le interazioni forti, che regolano l'interazione tra un certo tipo di particelle, come per esempio i protoni e gli elettroni, collettivamente chiamate droni, e le interazioni gravitazionali. I quattro tipi di interazioni fondamentali che sono note, hanno caratteristiche diverse dal punto di vista della forza della loro interazione e anche dal punto di vista di quanto è grande il range di influenza delle interazioni. Per esempio, l'interazione elettromagnetica con la gravitazionale permettono a due cariche elettriche, due masse, di sentirsi a distanze molto grandi, mentre le interazioni deboli e le interazioni forti sono interazioni a corto range. Cos'è che interagisce? Gli elementi fondamentali, grandi libertà fondamentali che interagiscono e che descrivono tutta la varietà del mondo che conosciamo, tutto quello di cui siamo composti e che c'è per esempio in questa stanza, sono suddivisi in due categorie. Praticamente, i leptoni, che sono degli oggetti che hanno solo interazioni elettromagnetiche e interazioni deboli, e gli adroni, che in più hanno anche interazioni forti. Gli adroni, per esempio il protone e un adrone, sono degli oggetti che possono avere, questo è un concetto importante in quello che poi andremo a descrivere successivamente, possono avere o spin semi-intero, come il protone che è spin neutro, oppure possono avere uno spin intero, come per esempio i pioni, che hanno quindi uno spin, per esempio nel caso di pioni, uno spin neutro, cioè possono essere sia bosoni che fermioni. tutte queste particelle hanno anche, in virtù del fatto che loro hanno una massa o del fatto stesso che posseggono energia, interazioni gravitazionali, che però, a meno di non andare a scale di energia o a scale di molto grandi o a scale di distanze molto piccole, sono del tutto trascurabili, e infatti l'interazione gravitazionale non è contenuta in quella prima trasparenza dello spazio. I leptoni sono sostanzialmente la prima categoria di particelle che ci interessano, la più semplice e nota delle quali è l'elettrone, e i leptoni possono essere, allora, sono tutti fermioni posti in un mezzo, e per quanto riguarda l'elettrone, le sue repliche a massa più pesante hanno una carica negativa, e poi sono accompagnate da un compagno neutro che ha solo interazione debole, non elettromagnetica in quanto a carica nulla, che è l'elettrino. Vengono tipicamente organizzati in tre famiglie, delle quali, passando dalla prima a quelle superiori, in particolare sono esattamente repliche dal punto di vista delle proprietà di carica elettrica e dell'interazione alle quali partecipano, semplicemente quello che cresce la massa, in particolare la massa della particella carica, dall'elettrone al muone, al tau. Per quanto riguarda invece gli adroni sono pensati essere particelle composite, per esempio il protone e il neutrone, dal punto di vista di quella descrizione delle interazioni fondamentali che vi ho detto precedentemente, non sono delle particelle fondamentali, ma sono delle particelle composite, formati da coppie o tripletti, cioè due o tre gradi di libertà più fondamentali, che sono appunto i quark. Quindi i quark, come i leptoni della trasparenza precedente, sono anch'essi dei fermioni con spin in mezzo. Quindi vediamo come le particelle che descrivono la materia ordinaria, quindi quella di cui siamo fatti, per esempio, protoni ed elettroni, sono in ultima analisi tutti dei fermioni di spin in mezzo. A differenza dei leptoni, però i quark hanno una proprietà in più che viene chiamata colore, che è grazie alla quale permette di formare degli stati legati che, quando noi leghiamo in un modo opportuno un quark, un antiquark, costruiamo quel mesone, particella bosonica di cui parlavo prima, come per esempio il pion, quando ne combiniamo tre quark, formiamo invece un barone. Anche i quark, come i leptoni, hanno la caratteristica di potersi organizzare dal punto di vista delle interazioni che hanno di nuovo in tre famiglie, dove la seconda e la terza sono una replica sostanzialmente della prima, hanno una carica frazionale per combinare a formare oggetti a carica intera, come per esempio il protone, che è carico positivamente con carica più 1 o neutro come il neutrone. Chiaramente la loro carica deve essere una frazione di 1, e se essendo 3 possiamo avere carica meno un terzo per questi e carica due terzi per questi, così di tipo giù di tau, di tipo su a. Quindi c'è una sorta di simmetria veramente tra quanto riguarda il settore che va a comporre gli adroni, che sono stati legati agli oggetti più fondamentali, che sono i quark, e quindi questi quark, e i fermioni, che invece sono oggetti che non hanno interazione forte, un'interazione forte in qualche modo è legata a questa proprietà aggiuntiva che è il colore, ma è molto simile. Ora, qui ancora sarò un pochino tecnico su questo, ma come interagiscono questi oggetti? Cioè, come fanno a interagire due leptoni o due quark? Interagiscono mediante un meccanismo che viene descritto in un modo formale che però è molto potente. Cioè, si invoca l'esistenza di una simmetria. Ora, non mi interessa entrare nei dettagli di come funziona tecnicamente la realizzazione di questa simmetria, ma la cosa importante è che il modo in cui le particelle interagiscono è, in ultima analisi, legato all'esistenza di una simmetria. Può essere legato all'esistenza di una simmetria. In questo caso, per esempio, nel caso di interazione elettromagnetica, il modo di descrivere come un elettrone interagisce con il campo elettromagnetico, e quindi il fotone, che è il quanto che trasporta il campo elettromagnetico, si arriva a scrivere una lagrangiana di un certo tipo, ma la cosa importante è che questo oggetto che io riesco a scrivere ha una ben precisa proprietà di invarianza. È invariante per trasformazione di Lorentz, e questa è una buona proprietà che devono avere tutte le teorie fondamentali, ma è invariante anche per un insieme aggiuntivo di simmetria, che non è una simmetria legata alle trasformazioni, per esempio, spazio-temporali, che è la simmetria di Lorentz, è una simmetria, diciamo, interna ai nostri oggetti, e l'elettrode che viene descritto da un campo che trasporta o spinge un mezzo, e questo è classicamente il quadrivettore che descrive i potenziali vettori dell'elettromagnetismo, e quando faccio una teoria di campo va a descrivere il fotone. Questo è un oggetto che, se io faccio questa combinazione di trasformazioni sui due campi, questo oggetto non cambia. È un po' come quando voi avete un oggetto che è invariante per rotazione. Cosa vuol dire avere invarianza per rotazione? Vuol dire che se io ruoto il sistema di coordinate, quello che voi state descrivendo non cambia, avete un oggetto che è un invariante. In questo caso l'invarianza avviene per effetto di un certo tipo di trasformazione. Ovvero, e questo tipo di invarianza ci permette di scrivere come interagiscono queste particelle tra di loro. Questo vale per il campo elettromagnetico e ha subito delle proprietà molto importanti. L'effetto dell'invarianza, cioè l'effetto della c'è una simmetria nel mio sistema. Io posso trasformare qualcosa e non cambia l'oggetto fondamentale che descrive il sistema, che è quella funzione L che ho scritto prima. L'esistenza di questa simmetria implica che il fotone abbia massa nulla, come è, che a sua volta è legato al fatto che l'interazione elettromagnetica è un'interazione a range lungo, infinito, e implica anche la conservazione di qualcosa di molto importante, che è la conservazione della carica elettrica. Proprietà ben note, che però sono contenute all'interno del modo in cui descriviamo con teoria di campo l'elettromagnetismo, dentro permettono dell'esistenza di questa simmetria, che si chiama simmetria di Clebsch. Quindi la elettrodinamica quantistica è costruita come una teoria, che si chiama teoria di Gauge, che è basata su un certo tipo di invarianza, ovvero sulla presenza di un certo tipo di simmetria. La materia, che è un elettrone, è un fermione di spin 1/2. L'interazione è trasportata da un oggetto che viene chiamato anche campo di Gauge, che è il fotone, che è un bosone con spin 1. Questo può essere generalizzato in modo molto potente per descrivere tutte e tre le interazioni che vi ho detto prima, eccetto la gravità, nel costruire questa complicata struttura, questa complicata ma non neanche troppo struttura. Ovvero, nei tre tipi di interazioni fondamentali che io ho, che osservo in natura, possono essere descritti come combinazioni di tre gruppi di simmetria analoghi, anche se un pochino più complicati, a quel tipo di invarianza che ho nell'elettromagnetismo. Sono delle generalizzazioni più complicate che vengono chiamate appunto gruppo 1, gruppo 2, gruppo 3. Cioè io ho tre tipi di invarianza, una delle quali, anche se non è esattamente questa perché c'è qualche tecnicalità troppo sottile, comunque una delle quali alla fine sarà equivalente al costruire un'interazione elettromagnetica. Questa andrà a costruirmi il modo in cui tra di loro interagiscono debolmente, per esempio il muone e il neutrino, per dare un riferimento del muone, e questa è quella che mi darà l'interazione di tipo forte, l'interazione anche di colore, perché si chiama colore il numero quantico conservato. Io ho per ognuna di queste, appunto, per ognuna di quantici conservati, e per ognuna di queste simmetrie rappresentate qui da questi gruppi di simmetria, ho una costante di accoppiamento. Ho una costante di accoppiamento per questo, una per questo e una per questo. Cioè una sarà legata alla costante che mi dà l'accoppiamento di tipo elettromagnetico, che in ultima analisi è legata alla costante di struttura fine. Una è quella che mi dice quanto forte invece è l'interazione debole, che è legata a questa simmetria qua, e una che mi dice quanto è forte l'interazione forte. Così come per l'elettrodinamica che descrivevo prima, avevo un semplice gruppo di simmetria, avevo un singolo mediatore che era il fotone, e per questo mi permetteva di descrivere in un certo modo l'interazione tra elettrode e fotone, così io ora avrò un campo che mi descrive alla fine l'interazione elettromagnetica, anche se non lo ripeto, non è esattamente questo perché è un pochino più complicato, ma è legato a questo campo qui. Tre campi adesso che mi daranno informazioni su quanto è forte l'interazione debole, in realtà l'insieme di questi due messi assieme danno quella che viene anche chiamata interazione elettrodebole, e in un certo senso danno una descrizione unificata di fenomeni di interazione elettromagnetica e di interazione debole. E poi ho otto, sono otto proprio per come è costruita questa teoria, sono otto i mediatori dell'interazione forte, cioè così come ho un fotone ho tre oggetti che mi mediano l'interazione elettromagnetica e l'interazione debole, che poi saranno i famosi bosoni W, che sono i due stati di carica più o meno, e il bosone Z, e poi ho i gluoni che determinano come e quanto interagiscono tra di loro i quark per dare l'interazione forte. Quindi io ho il modo di scrivere queste interazioni, adesso non ci interessa entrare nel dettaglio, e ho quindi che le interazioni sono descritte da un settore della teoria che coinvolge 1 più 3 più 8 mediatori che sono tutti dei bosoni a spin 1. Sto insistendo molto sulla statistica di questi oggetti perché la supersimmetria sarà qualcosa che andrà a operare proprio su questo grado di libertà che è lo spin. Tutta la materia, quindi sia gli elettroni, sia i costituenti fondamentali dei protoni, per esempio, che sono quark di tipo U e V, sono tutti oggetti a spin 1 vetro. Cioè nel modello standard la materia è descritta in ultima analisi da fermioni di spin 1 mezzo. Le interazioni sono tutte descritte da bosoni di spin 1. E c'è un modo consistente di costruire la teoria, che dà origine a questo tipo di scrittura, che mi dice esattamente come funziona la teoria e mi descrive in modo corretto il tipo di interazione. Quindi ripeto, le interazioni sono spiegate dallo scambio, dalla mediazione di particelle spin 1, che però possono esistere anche come particelle reali che osserviamo. Il fotone è il mediatore dell'interazione elettromagnetica. Quindi quando io ho un elettrone che interagisce con un altro elettrone che si scambia un fotone, quel fotone virtuale è scambiato come mediatore dell'interazione. Ma io posso anche osservare, come pensa, ma dei fotoni come particelle reali, cioè i fotoni, i mediatori dell'interazione elettromagnetica possono anche essere delle particelle reali che io posso osservare. Idem vale per questi oggetti qua. Per i gluoni è un po' più complicato perché c'è una proprietà speciale che li obbliga, così come i quark, a restare confinati dentro il mio adrone, cioè dentro il mio protone, cioè non li posso allontanare e averli come stati liberi. Però sono degli oggetti che mediano interazioni, ma esistono anche come particelle vere e proprie, reali, diciamo, sostanzialmente. Ora, in quello che ho detto adesso, se tutto fosse finito qua, avremmo che però tutto non ha massa, perché se vi ricordate quello che ho detto prima, la simmetria, l'esistenza di questa simmetria per il campo elettromagnetico implicava che il fotone non avesse una massa. Estendendola a una situazione più complicata del gruppo SU3 per SU2 per 1, ognuno di questi oggetti deve essere senza massa e anche, in realtà non ve l'avevo esplicitamente detto, anche tutti i fermioni devono essere senza massa. Allora, il modello standard in realtà ha bisogno di un ingrediente ulteriore che serva in particolare a fare la seguente operazione. Noi sappiamo che il fotone non ha massa, perché noi abbiamo osservato che il fotone non ha massa, però non abbiamo mai osservato questi mediatori dell'interazione debole senza massa. Altro modo di vederlo, se non avessero massa, l'interazione debole sarebbe un'interazione a lungo range, cosa che non è un'interazione a corto range. E quindi io devo poter dare massa a questi oggetti. Allora, il modo in cui è realizzato nel modello standard è con un meccanismo un po' particolare che viene chiamato rottura spontanea di simmetria, che coinvolge l'esistenza di un altro campo, e questo sì è un campo che non è ancora stato osservato in natura, che si chiama campo di Higgs. È legato al fatto che io prendo un campo scalare questa volta, un campo spin 0, che ha un potenziale di un certo tipo, per esempio fatto come quello che ho descritto in questo modo. Il potenziale ha una simmetria sua, cioè se io prendo phi e lo mando in meno phi, un oggetto scritto in questo modo qua non cambia di segno, quindi vuol dire che il cambio è invariante, il potenziale è invariante se io faccio questa operazione. Il problema però è che io devo stare in uno dei due minimi di questo potenziale, o questo o questo. Se sono in questo, necessariamente il mio mondo che vive in questo minimo del potenziale, la simmetria non la vede più. La simmetria c'è ancora, ma lui non la vede, perché se lui dice, beh, io sono seduto qui e adesso faccio un'operazione che mando phi meno phi, allora lui dovrebbe andare a fine dell'altro e quindi non vede più la simmetria. C'è un meccanismo di questo tipo in cui c'è una simmetria che però non si vede nella teoria, si dice spontaneamente rotta, è legata al fatto che ho dei potenziali fatto in questo modo e il potenziale è sì simmetrico, ma lo stato di minima energia, che chiamo anche vuoto della teoria, non è simmetrico. Io vivo nel mio vuoto della teoria e quindi la simmetria non la vedo più, l'ho rotta spontaneamente. L'effetto del campo di Higgs, che è costruito in questo modo, costruito da due, in realtà il campo di Higgs sono due campi scalari, spin zero, carichi, e quindi in totale un campo carico significa che ha una parte reale e una parte immaginaria, quindi in totale conta come due gradi di libertà. Sono due campi reali organizzati in una struttura che mi dà un campo complesso. Io ho due campi, quindi quattro oggetti, quattro gradi di libertà, tutti a spin zero. Il meccanismo di Higgs, di questa rottura spontanea di simmetria, fa il seguente effetto. Tre di questi campi che sono qui dentro della teoria, in un certo senso vengono mangiati, vengono distrutti e vanno a dare massa ai bosoni W e Z. Mentre uno di questi quattro, quindi io posso con questi quattro oggetti all'interno della teoria andare a dare la massa ai due bosoni W e al bosone Z, il fotone resta massa nulla come voglio e mi resta ancora un campo libero che era un campo fisico vero e proprio che si chiama bosone di Higgs. Quindi alla fine della mia costruzione, questo oggetto in più che devo aggiungere oltre alla materia, che sono tutti fermi in un mezzo, e ai mediatori delle interazioni, che chiamo campo di Higgs, mi introduce un'ulteriore particella spin zero e mi permette di dare, mediante questo meccanismo che si chiama rottura spontanea di simmetria, massa ai bosoni W e ai bosoni Z. Ai gluoni non devo dare massa, perché non c'è, cioè, i gluoni, la teoria funziona con gluoni a massa nulla, non è una teoria rotta, non c'è una rottura di quella simmetria legata all'interazione forte, quindi loro rimangono. Così non ho bisogno di aggiungere nessun ulteriore meccanismo. C'è poi un termine aggiuntivo che viene chiamato di Yukawa, che permette, grazie al meccanismo stesso di rottura spontanea di simmetria, che è quello che dà massa a questi bosoni vettori, permette anche di dare massa, mediante questo termine aggiuntivo, a tutti i fermioni, tranne i neutrini. Cioè, io utilizzando questo oggetto aggiuntivo, il bosone di Higgs è quello che mi permette di generare la massa di tutte le particelle, che altrimenti sarebbe esattamente zero se la simmetria fosse esattamente verificata, non fosse una simmetria, come si dice, rotta. In questo caso spontaneamente rotta, perché invoco un meccanismo particolare che si chiama rottura spontanea. Quindi, riassumendo su un'unica tabella, tutte le particelle che costituiscono tutta la materia che abbiamo, che possiamo misurare nel mondo fisico, abbiamo questo tipo di struttura. Qui è stata riportata anche la massa di questi oggetti, che non è zero, l'elettrone ha una massa ben definita, e come vediamo, quello che è interessante anche osservare è che di tutte queste particelle sono state tutte osservate, tranne il bosone di Higgs, e c'è una differenza di valore delle masse di queste particelle enorme. Qua sono tutte riportate in unità di gigaelettronvolt, cioè la massa viene misurata in unità di energia, e qua è tutto misurato in unità di gigaelettronvolt, 10 alla 9 elettronvolt, che si va da un elettrone che ha una massa circa un mezzo, 10 alla meno 3, questa unità qui, fino al top quark, che è l'ultimo che è stato osservato, che ha una massa di circa 170 giga elettron. Quindi c'è una differenza enorme. Come si vede, la prima famiglia è tipicamente mediamente più leggera della seconda e mediamente più leggera della terza. C'è quindi una gerarchia passando da una famiglia all'altra, l'elettrone più leggero del muone, più leggero del tau. Però c'è anche una differenza di enormi ordini di grandezza tra la massa del top quark e la massa dell'elettrone. Discorso a parte è tra la massa del neutrino, perché il neutrino, il modello che vi ho fatto vedere, sarebbe esattamente la massa nulla. Il problema è che il neutrino non ha massa nulla, come si sa, dalle misure ormai ben verificate, che coinvolgono una sua particolare proprietà, che è quella della oscillazione. Cioè, il neutrino di un tipo può oscillare nel neutrino di un altro tipo, propagandosi. E questo implica che, per esempio, se io faccio un processo che mi produce solo neutrini elettronici e vado a misurare il flusso di neutrini a una certa distanza, a una certa distanza il flusso può essere costituito da una miscela un po' di neutrini di un tipo e un po' di neutrini dell'altro tipo. Questo è stato osservato che i neutrini che ci arrivano dal Sole, prodotti dalle reazioni termonucleari all'interno del Sole, è stato misurato nei cosiddetti neutrini atmosferici, cioè nei neutrini che sono prodotti in alta atmosfera dovuti alla catena di processi, raggi cosmici che interagiscono con l'atmosfera. Da queste interazioni si producono tante particelle che a loro volta decadono e in ultima analisi producono anche dei neutrini, quindi dei neutrini prodotti in alta atmosfera, li misura a terra e vede che c'è un'oscillazione, e anche in altri tipi di esperimenti. Quindi il neutrino, se oscilla, deve avere massa, e quindi anche il neutrino ha una massa, e già il modello standard che vi ho descritto non è in grado di descrivere questo, ma con una piccola estensione del modello non è molto difficile accomodare anche la massa. Il modello standard, in realtà, a parte un grafico semi-qualitativo come questo, in realtà è stato testato con misure di precisione molto molto bene. Qui una lunga lista di vari tipi di osservabili legati a processi che coinvolgono interazioni di particelle. Ci sono la misura della massa del bosone W e la misura della massa dello Z, che come vedete è un errore ormai estremamente piccolo. Il bosone W e il bosone Z hanno una massa intorno a 80 l'un e 90 g l'altro, e vedete che l'errore è estremamente piccolo, l'errore di un certo 4 nell'ordine relativo. Il modello lo predice e l'osservazione e il valore predetto del modello è estremamente simile. Cioè sono veramente confermato veramente che questi due valori sono con un'estrema precisione uguali. Poi ci sono altre grandezze, le larghezze di decadimento, per esempio, della Z in adroni, della Z in neutrini, oppure asimmetrie nei processi di decadimento di vario tipo. Tutte queste sono quantità che sono calcolate usando quello che ho scritto su quella trasparenza e sono confrontate con quello che viene misurato agli acceleratori. Vediamo poi dopo qualche esempio di acceleratore che fa questo tipo di misure. E a parte qualche piccola deviazione, c'è qualcuna di queste asimmetrie che vede alcune deviazioni, 2,5 deviazioni standard, ma sono quelle in cui il calcolo teorico o la misura sono più difficili. Tutta rete è una incredibile, un incredibile accordo tra la misura sperimentale e il valore teorico. E di queste misure ce ne sono un'infinità. Quindi il modello standard è estremamente, è una teoria che è un estremo successo, perché ci permette di spiegare in modo praticamente perfetto una enorme mole, qua non sono ricordato alcuni, un'enorme mole di processi fisici e di dati con una precisione estrema. Gli manca solo un ingrediente, il bosone di Higgs. Il bosone di Higgs non è mai stato osservato. Ed è un elemento cruciale della teoria, perché è quello che permette di dare massa a tutte le particelle che hanno massa. Quindi non è una parte del modello poco rilevante, è estremamente fondamentale. Cioè il problema della massa, di fatto, è legato a una particella di cui ancora nulla si sa, o perlomeno teoricamente sappiamo come la vorremmo, però non è mai stata osservata. E ha una particolarità diversa da tutte le altre, è l'unica che ha spin zero. Tutte le altre o un mezzo per costituire la materia o uno i mediatori di interazione. Le misure chiaramente permettono di dare un limite inferiore alla massa di questo oggetto, non lo vediamo e quindi possiamo dire che se facciamo un certo tipo di esperimento possiamo dire che non è più leggero di tanto. Il limite attuale ottenuto dall'esperimento Hersel di Ginevra del collisore elettroni-positroni LEP nel 2000 è stato, ha concluso le sue misure e l'ultimo risultato che ha ottenuto è stato un limite inferiore. Il bosone di Higgs, se esiste, è più pesante di 114.4 giga elettron volt, quindi già un valore abbastanza grande. Questo è un altro modo di vedere le misure di precisione del modello standard, in cui vengono definite delle quantità che sono chiamate variabili ST. Adesso come sono definite non è importante, quello che è importante è che sono definite in questo modo. Se il modello standard è esatto, queste quantità valgono zero. Cioè il modello standard è il punto che incrocia le reti 0,0. Chiaramente io faccio una misura, un certo errore sperimentale, quindi per esempio dalle misure della sezione d'urto di produzione di adroni o dalla larghezza di decadimento del bosone Z, uno trova che le misure sperimentali dicono che il modello è testato all'interno di queste ellisse, quindi il modello standard è compatibile con le misure con un grado di precisione molto buono. Detto in altro modo, un punto che sta fuori dalla situazione dei pezzi indica una deviazione dal modello standard. Quindi le misure di precisione costringono molto le possibili violazioni che io posso pensare che esistano al modello standard, ovvero confermano in modo molto preciso che il modello standard è una buona teoria. Su tutte le misure fatte il modello standard funziona in un modo estremamente preciso. L'unico problema è che non si è mai osservato il bosone di Higgs, però insomma, magari basta aspettare la nuova generazione di acceleratori e forse il bosone di Higgs verrà scoperto, come si spera. Quindi ho fatto questo discorso per introdurre alcuni concetti che ci serviranno, ma anche per portarci una domanda. E la domanda è: ma abbiamo bisogno di qualcos'altro? Se funziona così bene, chi ci dice che abbiamo bisogno? Perché dobbiamo andare a cercare qualcosa di ancora più fondamentale del modello standard? Beh, perché il modello standard, che funziona benissimo, in realtà ad alcune domande non risponde. Per esempio, è vero che descrive tutte e tre le interazioni fondamentali, elettromagnetica, debole e forte, in un modo autoconsistente, però non ha una vera unificazione delle interazioni, cioè non descrive in modo veramente unitario. Questo è codificato nel fatto che lui è dato da quei tre gruppi di simmetria separati, ma non c'è un unico gruppo unico che descriverebbe quindi in modo veramente unitario tutte le interazioni. Questo può essere un problema di tipo più estetico, se volete, però vedremo adesso che in realtà ci sono delle indicazioni che questa potrebbe essere la vera situazione, cioè potremmo voler introdurre veramente un'unificazione reale tra le interazioni. In ogni caso nulla ci dice sulla gravità. La gravità è un tipo di interazione che è completamente esterno al modello standard e quindi non abbiamo nessun modo di dire qualcosa sulla gravità e tantomeno unificarla con le altre interazioni, usando soltanto quello che conosciamo del modello standard. C'è un problema che vi spiegherò tra poco, che sembra essere abbastanza problematico, che viene chiamato problema della naturalezza, quindi non dico altro adesso. Un altro problema è il problema della massa, cioè il settore di Higgs non è veramente testato fino in fondo, non abbiamo ancora scoperto questa particella. E in più introduce un gran numero di parametri liberi, non ve l'ho fatto vedere molto, però tutte le masse delle particelle, tranne i bosoni vettore, W e Z, hanno una massa che dipende dall'esistenza del bosone di Higgs, ma il valore della massa il modello non lo predice. Quindi sarebbe bello un modello che predica anche il valore delle masse, così come predice la massa del bosone W e del bosone Z. Le masse dei neutrini non sono contenute, ma con una piccola estensione si possono fare. Ci sono quei problemi più generali, che adesso qui non tocco. Per esempio, non spiega perché il numero di famiglie sono tre. Abbiamo tre repliche della famiglia, ma solo tre, e non più di tre, e non meno di tre. E altri che adesso non dico. E poi c'è un'indicazione che arriva da un altro campo della fisica, che il modello standard non è sufficiente per descrivere tutto quello che noi possiamo aspettarci della struttura fondamentale della materia, che viene dalla cosmologia. Se avrò tempo vi dirò qualcosa successivamente. Vi cito solo due di questi problemi, che sono due dei problemi che la supersimmetria in qualche modo riesce a risolvere, e una è quella dell'unificazione delle costanti di accoppiamento, in modo da poter descrivere tutto come un'unica interazione. Ora, le correzioni quantistiche di una teoria di questo tipo portano naturalmente ad avere che le costanti fisiche, tipo la massa, la costante di accoppiamento, non sono delle costanti, ma variano con l'energia alla quale vengono misurate. Questo è un esempio della verifica, anche qui estremamente precisa, di questo fatto che è intrinseco nella teoria quantistica dei campi che vi ho scritto, del fatto che la costante di accoppiamento cosiddetta forte decresce man mano che l'energia alla quale io faccio la mia misura cresce. Queste sono misure sperimentali, questa è la predizione teorica, e come si vede questa predizione è verificata. Cioè, quelle che noi chiamiamo costante di accoppiamento, per esempio la costante di struttura fine, vale 1 su 137 alle energie molto basse. Se andiamo a energie molto alte, in realtà cresce. Quello che noi potremmo aspettarci, quello che si può fare, è che se noi prendiamo, in realtà che l'inverso delle costanti di accoppiamento, questa è la costante di struttura fine, queste sono quella dell'interazione debole, questa dell'interazione forte, loro variano, e variano in un certo modo. Due di queste... Allora, questo è l'inverso, quindi due di queste decrescono man mano che la scala sale, e una di questa cresce. Questa è quella dell'interazione elettromagnetica, perché sono quelle interazioni deboli per l'interazione forte. Allora, questa è una indicazione, non una prova, che potremmo aspettarci che esista una scala grande, molto alta, dell'ordine di 10 alla 15, 10 alla 16, eccetera, in cui tutte e tre si unificano. Questo che significato avrebbe? Avrebbe significato che allora, se tutte le costanti di accoppiamento hanno lo stesso valore, ma ben precisa scala, allora sotto ci deve essere una teoria che mi permette di descrivere tutte le interazioni con una sola, invece che tre come la modello standard. E questo è un segnale di vera unificazione. In realtà, nel modello standard, l'unificazione vera non si raggiunge. Si avvicinano, ma non è raggiunta. Quindi, di nuovo, potrebbe essere semplicemente un problema che non ha una vera validità, però l'indicazione è che va nella stessa direzione, è forte. Allora sarebbe bello poter descrivere veramente l'interazione in modo unificato, ma il modello standard non è in grado di farlo. Il secondo problema è un po' più tecnico, ma anche un pochino più grave per la teoria, ed è di nuovo legato al fatto che le correzioni quantistiche introducono delle correzioni alle quantità che noi calcoliamo, che nel caso del bosone di Higgs sono molto grandi. Cioè, questo è quel potenziale che dà la rottura spontanea di simmetria che vi ho detto prima. C'è un parametro. Questo parametro deve essere dell'ordine della massa dei bosoni vettori che lui stesso genera per rottura spontanea. Il problema è che le correzioni virtuali, quantistiche, a questo parametro, che sono date da diagrammi di questo tipo in cui io ho creazione e distruzione di fermioni virtuali, danno una correzione. Cioè, questo parametro in realtà nella teoria non è questo, ma prende delle correzioni. E queste correzioni dipendono dalla scala di energia alla quale io vado a fare la misura di questo processo. Ecco, allora la divergenza, cioè quello che succede è che più è grande la scala, questo va come questa scala, diciamo, al quadrato. Questa è una divergenza quadratica, viene chiamata. Cioè il significato di questo è che questo parametro, che deve essere di questo ordine di grandezza, cioè della cosiddetta scala di rottura elettrodebole, lui tenderebbe invece, se io la mia teoria la posso estendere fino a scale molto grandi, per esempio questa fantomatica scala di grande unificazione o anche di più, lui tenderebbe naturalmente ad avere un valore in realtà estremamente grande. Allora io devo avere, invece di questo oggetto qui dentro, questo è un parametro della teoria e questa è questa correzione. Se questo oggetto è estremamente grande, tipo 10 alla 16 al quadrato, affinché quello che io metto qua mi riproduca la scala elettrodebole, cioè la scala di rottura spontanea di simmetria, bisogna che questi due parametri si cancellino reciprocamente con un grado di precisione molto grande. Cioè, se io voglio fare qui 100 al quadrato, avendo qui 10 alla 16 al quadrato, questo deve essere anche qui 10 alla 16 al quadrato, con segno opposto, ma molto ben preciso, il valore è molto ben preciso, perché se no facilmente il parametro che metto qui è diverso e quindi non riproduco quello che serve. Cioè la rottura spontanea di simmetria che noi osserviamo, per cui il parametro fondamentale è la massa del bosone di W o del bosone Z, è ottenuta però in questo modo al prezzo di un cosiddetto aggiustamento fine molto forte nel modello standard. Questo è quello che si chiama problema della gerarchia o problema della naturalezza. Cioè avere una particella scalare nel modello implica, a seguito delle correzioni quantistiche, che i parametri del modello nel settore scalare tendano ad essere, preferiscano loro naturalmente essere estremamente grandi e quindi molto più grandi della scala elettrodebole, che è quella che io invece voglio spiegare e che è quella che osservo. Questo è un problema serio del modello standard, che il modello standard ha e non risolve. Allora questo ci fa pensare che noi possiamo introdurre qualcosa di più, qualcosa di nuovo, una nuova magari simmetria che ci permette di risolvere almeno in parte alcuni di questi problemi. Infatti c'è una nuova simmetria che qualcosa c'è, e questa simmetria è la cosiddetta supersimmetria. La supersimmetria è una simmetria che non c'è nel modello standard, che è una simmetria ipotizzata che ad ogni fermione associa un bosone e viceversa. La supersimmetria è una simmetria che scambia bosoni e fermioni. Io posso dire questo tecnicamente dicendo che un operatore che si agisce su uno stato bosonico mi dà un fermione, se agisce su un fermione mi dà un bosone. Cioè io posso avere quindi, se ho una simmetria di questo tipo, forse scritto nella trasparenza successiva, quello che posso avere, quello che ci interessa sostanzialmente è questo, che così come nel caso precedente, nel modello standard, io avevo l'elettrone e il neutrino che li avevo associati, li avevo messi in un multipletto, si chiama, li avevo messi assieme, perché? Perché loro hanno la stessa proprietà per quanto riguarda l'interazione debole. Sostanzialmente, a parte la carica elettrica, che però non sente l'interazione debole, si comportano allo stesso modo, hanno le stesse proprietà. E beh, se io ho una simmetria aggiuntiva che mi permette di collegare i fermioni ai bosoni, io posso aspettarmi di averne, anzi io devo avere nella mia teoria che tutte le mie particelle hanno un loro compagno, che però l'unica differenza che ha è che ha uno spin cambiato di una quantità mezza, perché ogni particella deve avere un compagno con una statistica cambiata. Per esempio, il mio elettrone dovrà avere un compagno che ha, se l'elettrone è spin un mezzo, dovrà avere un compagno che ha invece uno spin o 0 o 1. Ok? Adesso vediamo questo per un punto. Cioè, i compagni fermioni bosoni supersimmetrici, io quindi devo avere una replica delle mie particelle che hanno la stessa massa, la stessa carica elettrica, lo stesso numero quantico del modello standard delle mie particelle ordinarie. L'unica differenza che hanno è che sono con uno spin scambiato. Cioè, il mio, prendiamo l'elettrone, il mio elettrone, che è una particella spin un mezzo, posso aspettarmi, questi sono il contenuto del modello standard, se ho una teoria che deve rispettare questa simmetria, la simmetria ha come effetto il fatto che il mio elettrone deve avere un suo partner supersimmetrico, un suo compagno, che viene chiamato selettrone, che ha la stessa carica elettrica, ha la stessa proprietà di interazione debole dell'elettrone, non ha interazioni forti come non ne ha l'elettrone, ed è associato per l'interazione debole a un neutrino, a un compagno del neutrino che si chiamerà smettrino. Questi oggetti hanno spin un mezzo, questi oggetti li prendo spin 0, questi sono oggetti scalari. Perché non li prendo spin 1? Io potrei dire, beh, io ho degli oggetti spin un mezzo, li devo dare un compagno che ha lo spin cambiato di un mezzo. Non li metto a spin 1 perché, come abbiamo visto prima, il modello che abbiamo descritto, tutti gli oggetti a spin 1 sono mediatori di interazione. Se io al mio elettrone associassi un elettrone con spin 1 nuovo, allora questo dovrebbe, nella mia teoria che ho scritto precedentemente, implicarne anche l'esistenza di un nuovo tipo di interazione che non è osservata. Allora, non è utile avere un compagno di un fermione spin 1 mezzo che abbia spin 1. Quindi tutte le particelle di materia del modello standard che sono fermione spin 1 mezzo, sono fermione spin 1 mezzo, hanno dei compagni che hanno le stesse proprietà dal punto di vista delle interazioni forti, deboli, elettromagnetiche, hanno la stessa massa, ma sono tutte a spin 0. Allora, così come ho delle particelle che mediano l'interazione, sono oggetti bosonici a spin 1, avrò dei loro compagni, devo averli, perché la teoria soddisfa la supersimmetria se ho una simmetria tra i due modi. Tutto quello che ho lo devo replicare con spin cambiato di modo. Allora, per esempio, i gluoni avranno dei compagni a spin 1 mezzo che vengono chiamati gluini, che però avranno le interazioni forti così come ne hanno i gluoni. I bosoni W, per esempio, avranno dei bosoni nuovi, scusate, dei fermioni a spin 1 mezzo nuovi, che sono i loro compagni supersimmetrici. Per ogni partita del modello standard duplico tutto. La teoria è supersimmetrica solo se c'è la fermione. C'è già un primo problema, perché il riquadro che ho scritto qua per il bosone di Higgs del modello standard aveva bisogno di soltanto un campo di Higgs. Il modello supersimmetrico, in realtà, per questioni sue di consistenza interna, necessita di due campi di Higgs. E quindi il settore che per noi fondamentalmente dà la massa in realtà deve essere un po' più complicato del modello standard. Da qui uscirà una particella che assomiglia al bosone di Higgs del modello standard che ancora non abbiamo osservato, però ne avremo altri in più, lo faccio adesso la prossima trasparenza. Notate però che l'esistenza di una supersimmetria è un modo naturale per dare una ragione di esistenza alle particelle di spin 0. Nel modello standard avevamo introdotto il bosone di Higgs come particella spin 0 perché ci serviva per dare massa, però era l'unica particella mai osservata che aveva delle proprietà. Se c'è la supersimmetria, è la supersimmetria stessa che mi giustifica l'esistenza di particelle scalari, il che comunque è, dal punto di vista teorico, una buona prerogativa. Il modello un po' più complicato, bisogna di due doppietti di Higgs, in totale vuol dire 8 campi. Il meccanismo di rottura di simmetria mi permette di dare massa a bosone W, quindi W meno Z, quindi questi 8, 3 li perdo, me ne restano 5 reali, fisici, veri e propri, di cui 2 sono neutri, 3 sono neutri e 2 sono. Proprietà intrinseca in questo modello è che, oltretutto, il più leggero di questi nuovi bosoni di Higgs ha un limite superiore alla massa. Non può essere più pesante di qualcosa come 140 o 150 Joule. E notate che il limite sul bosone di Higgs inferiore di massa è 114. Quindi questo ci dice che se la supersimmetria esiste, non siamo molto lontani dalla misura della massa del bosone di Higgs. Quindi questo è il nuovo mondo che abbiamo. Alle particelle ordinarie associamo tutto un inside quark, associamo degli scalari che sono gli squark, ai lettoni, gli slettoni, al neutrino, lo snettrino e così via, per esempio ai bosoni di Higgs, gli zini, ai bosoni di Gauss, così detti Gauge. Se la teoria in più ha una simmetria aggiuntiva, notate che adesso queste nuove interazioni che sono presenti nel modello hanno però la brutta particolarità di permettere dei processi non belli, come per esempio il decadimento del protone. Il protone si sa che non decade meglio, ha una vita media che è molto più grande dell'età dell'universo, dell'ordine di 10 a 32, 10 a 33 anni o più. Allora, per evitare il decadimento del protone si possono introdurre delle simmetrie aggiuntive, come una viene chiamata R parità, che fa sì che allora, quello che fa sì è che tutti i processi che coinvolgono particelle nuove devono avere almeno due particelle dentro di sé, un po' l'analogo del numero bariante. Se questa ulteriore simmetria è conservata, allora se io faccio un'interazione di due particelle standard, mi può produrre due particelle supersimmetriche, oppure una particella supersimmetrica può produrmene un'altra, ma allora questo è tipo un processo di decadimento. La più leggera di queste non può decadere, perché se non ha altre particelle supersimmetriche più leggere in cui può decadere, perché ci sono, se la più leggera, allora la più leggera tra tutte queste particelle è stabile. E questo ha una rilevanza importante per la fenomenologia. Una prima cosa che fanno i modelli supersimmetrici in modo molto naturale è permettere l'unificazione del costante accoppiamento. dato che aggiungiamo delle nuove particelle nel modello, il modo in cui si muovono in funzione dell'energia le costanti di accoppiamento è diverso, e questo non è fatto a mano, questo viene fuori dal calcolo, l'aggiunta di questa nuova insieme di particelle permette l'unificazione delle costanti di accoppiamento. Quindi la teoria grande unificata, in realtà, se esiste, deve avere supersimmetria. Il problema della gerarchia è corretto in modo molto naturale perché io ho delle particelle in più, quindi mentre questo fermione qui mi dava dei problemi di divergenza quadratica alla massa dell'X, adesso lui ha un partner supersimmetrico che però ha uno spin diverso. Allora, proprio dal punto di vista del calcolo dei quantistica dei campi, si fa vedere come questo e questo danno lo stesso contributo con segno opposto. È intrinseco nella teoria, purché la costante d'accoppiamento di questo fermione con dose di Higgs e di questo sfermione con dose di Higgs abbia una particolare relazione. Ma questa particolare relazione è intrinseca nel fatto che la teoria è supersimmetrica. Quindi una teoria supersimmetrica è di fatto senza divergenze quadratiche. Quindi il problema della gerarchia del modello standard non esiste, e quindi la rottura spontanea di simmetria è naturale, non ha bisogno di... Lambda S uguale lambda F è una funzione, non è richiesto dalla teoria. Perché lambda S è uguale lambda F quadro? Ci sono delle relazioni tra questo e questo, perché questo oggetto, che è un fermione, no? che sta in un certo multipletto per interazioni, per esempio, deboli, eccetera, il suo oggetto ha lo stesso tipo di struttura. Cioè, sostanzialmente, la teoria di Gauge che mi fissa le interazioni di questo, mi fissa anche le interazioni di questo con una corrispondenza ben specifica, perché se la rompo la supersimmetria viene rotta. La supersimmetria permette di avere cioè il fatto che questi oggetti sono negli stessi in multipletti di materia, adesso faccio un po' di questo oggetto qua si comporta in un certo modo per S3, per S2, per 1, e questo deve comportarsi esattamente come quello, semplicemente con una statistica diversa, e le costanti di accoppiamento devono essere opportunamente relazionate, perché sennò la teoria non è supersimmetrica. Quindi anche la gerarchia è un problema che può essere risolto. In realtà la supersimmetria permette anche potrebbe permettere di dire qualcosa anche sull'interazione gravitazionale. Perché mettendo in relazione particelle a spin diverso, l'interazione gravitazionale in una descrizione con quantistica in cui ho dei mediatori dell'interazione, ammettendo di poter costruire questa teoria che al momento non è disponibile, il mediatore dell'interazione gravitazionale, detto gravitone, è un oggetto che deve avere spin 2. Allora, essendoci relazione tra oggetti a spin diverso, io con applicazioni opportune dell'operatore di supersimmetria posso mettere in relazione il gravitone che è spin 2 con l'oggetto spin 3 metri, spin 1, spin 1 e spin 2. Cioè posso trovare delle relazioni tra il gravitone e gli altri oggetti, in particolare lo di Gauge, la materia ordinaria, che quindi mi possono portare, sperabilmente, ad introdurre anche la gravità in questo tipo di descrizione. Adesso questo è molto complesso, comunque la versione di supersimmetria cosiddetta locale, quella supersimmetria, la trasformazione che avviene in ogni punto dello spazio-tempo, detta supergravità, è una teoria che in qualche modo contiene al suo interno non solo l'interazione debole, forte, ed elettromagnetica, ma anche la gravità. E questo oggetto, il partner del gravitone, viene chiamato gravitino. Ora, magari saltiamo un po' di queste cose, perché chiaramente complica il tutto. C'è però un problema per la supersimmetria. Il problema è che ho detto che, per esempio, il mio elettrone deve avere un partner, il se elettrone, che sta qui da qualche parte, che è uguale tranne che per lo spin, cioè la stessa massa, la stessa carica e tutti gli stessi numeri quantici. E non è mai stato osservato. Se non è mai stato osservato, i casi sono due. O il mondo non è supersimmetrico, oppure abbiamo una scappatoia. La supersimmetria è una simmetria, ma presenta il fenomeno di rottura. Come il modello standard si basa su un gruppo di simmetria che esiste, ma è spontaneamente rotto, cioè il mondo che noi vediamo non rispetta la simmetria della teoria sottostante, potremmo aspettarci, questo è naturale, può essere naturale, che anche la supersimmetria sia anche lei spontaneamente rotta, o rotta in qualche modo. È necessario che lo sia, La supersimmetria, se esiste, deve essere rotta perché non abbiamo mai osservato i partner supersimmetrici delle particelle osservate ordinarie con la stessa massa, per esempio. E allora qui si entra in un settore ulteriore della teoria in cui la teoria aggiunge dei termini che danno massa ai cosiddetti DFG, cioè i partner fermionici del bosone di Gauge. Bisogna aggiungere delle masse per tutte le particelle, per gli spermioni, per gli spertoni, per gli squark, per tutte le particelle nuove, e quindi io, questo è un po' un problema. Devo farlo, però introduco un grandissimo numero di parametri aggiunti. Questi parametri però sono intrinsecamente presenti nella teoria e ne danno da un lato una grossa ricchezza in termini di fenomenologia, ma dall'altro sono parametri liberi aggiuntivi. Quindi, in mancanza di una guida sottostante che ti spieghi come il mondo supersimmetrico con supersimmetria rotta che noi viviamo vive, e tipicamente si pensa che ci sia un meccanismo che viene trasferito al mondo ordinario, un meccanismo di rottura che viene trasferito per mezzo di qualche tipo di interazione nuova, aggiuntiva. Ebbene, finché questo non è capito, al momento non è capito, i parametri liberi purtroppo sono validi. Quindi, da un lato ha delle belle proprietà, dall'altro ha dei problemi. I modi di rompere la supersimmetria sono vari, adesso non mi addentro in questo, ma a seconda del modo in cui io rompo la supersimmetria ho delle proprietà diverse. Per esempio, nei meccanismi in cui questo trasferimento di informazione è mediato dalla gravità, io ho per la mia particella supersimmetrica più leggera, quindi il primo stato accessibile del nuovo insieme di particelle, è di un certo tipo, o è il compagno di un neutrino, o è il compagno supersimmetrico, per esempio, del fotone. O di altri bosoni di Gauge della teoria supersimmetrica. Nel caso in cui invece queste interazioni di tipo interazioni di Gauge, diciamo tipo quelle elettrodeboli, allora la particella più leggera in questo tipo di modelli viene naturalmente essere il gravitino, quindi una particella molto diversa da questa. Questa è un'interazione di tipo elettrodebole, questa è un'interazione di tipo gravitazionale. Sarà molto difficile osservare una particella di questo tipo perché un'interazione gravitazionale che è molto piccola alle nostre scale di energia, mentre questa sarà più facile. Quindi tutta la fenomenologia che io posso prevedere per i modelli supersimmetrici è legata a questo settore oscuro della teoria. Ora saltiamo un po' di cose perché è molto più legato ai modelli. Ci sono vari tipi di modelli, per esempio una caratteristica interessante di questi modelli è che partendo da valori a una scala di gradificazione, cui significano le costanti di accoppiamento, calcolando come loro evolvono verso le scale alle quali noi viviamo, la scala elettrodebole, io ho un meccanismo per generare la rottura spontanea di simmetria. Il bosone di Higgs adesso presenta una struttura più complessa che ho un meccanismo per spiegare perché la scala di rottura elettrodebole è quella. E la induco all'interno della teoria e non la metto a mano, come invece faccio nel modello standard. Tipicamente le nuove particelle mi aspetto che siano dell'ordine della massa del W o più, ma possono anche essere molto pesanti, come dell'ordine di 500-600 Gev. Quindi queste stanno molto difficili da osservare perché hanno bisogno di energie molto grandi per poter produrle, mentre queste teoricamente sono più facili. Vediamo infatti semplicemente il fatto che sulla supersimmetria non abbiamo nessuna evidenza sperimentale, ma ci sono tutta una serie di esperimenti del passato, come quelli all'acceleratore di Ginevra, attuali come il Fermilab o futuri come il prossimo acceleratore previsto al CERN di Ginevra, che da un lato hanno permesso di dare dei limiti e dall'altro ci permetteranno sperabilmente di osservare qualche cosa. Per esempio, qui è un esempio come il limite sulla massa dell'X nel modello supersimmetrico, adesso abbiamo più Higgs, è stato testato dall'esperimento LEP fino a un certo punto, cioè non è 114 come per l'X del modello standard, ma un pochino di meno, cioè sotto 90 Gev sicuramente non c'è nessun X, neanche supersimmetrico. Oppure, magari prendiamo la prossima trasparenza che un po' riassume, solo per dare un'idea di qual è il limite inferiore sulla massa di questi oggetti nuovi. Beh, il test fatto agli acceleratori ci dicono che questi oggetti, se esistono, sono molto pesanti. Di vi ricordo che il bosone di Doppler è 80 Jev, il Top è 170 Jev, e queste sono particelle molto pesanti, un protone pesa un Jev. Quindi, per esempio, il selettrone, il compagno dell'elettrone, l'elettrone è una massa che è 0,5 MeV, cioè 5 in 10 alla meno 4 Jev. Il selettrone è sicuramente più pesante, a parte dettagli del modello, di qualcosa come 100 Jev. Qualche particella può essere più leggera, come per esempio il neutralino, che può scendere anche fino a 40-50 Jev, dipendendo dal tipo di modello, però questi oggetti sono oggetti estremamente pesanti. Quindi per poterli osservare, se esistono, sono necessarie da un lato macchine molto potenti, come per esempio il futuro acceleratore, adesso qui non c'è lui, LHC, che è posto nello stesso anello al CERN di Ginevra in cui era posto il precedente LEP, semplicemente quello che cambia è che invece di essere un collisore di elettroni e positroni, è un collisore di protoni e protoni. Questo è un esempio di uno degli esperimenti che si stanno montando. E lì bisogna andare a energie estremamente grandi, cioè quello che ci si aspetta di poter fare, che LEP è arrivato fino a testare energie di questo tipo, mentre il futuro LHC dovrebbe poter arrivare addirittura a 14 Tempo, cioè 10 alla 4 Jev, e quindi sperabilmente poter osservare queste nuove particelle. Chiaramente quello che ci si aspetta di poter osservare sono, da un lato, queste nuove particelle, dall'altro il bosone di Higgs, che comunque rimane un elemento chiave e fondamentale per la generazione della massa. Adesso credo che il mio tempo sia sostanzialmente concluso, magari faccio semplicemente un flash per dirvi che c'è anche un altro tipo di studi che puntano nella direzione di dire che il modello standard non ci basta. Questo può essere visto in modo molto semplice, semplicemente guardando a questo. Guardando al cosmo in sé, cioè guardando all'universo, non come sistema microscopico, ma come sistema macroscopico, negli ultimi anni c'è stato un incredibile aumento delle capacità teoriche, ma soprattutto sperimentali, per poter determinare come è fatto il nostro universo. Oggi noi sappiamo sostanzialmente la seguente informazione: l'universo è sostanzialmente geometricamente piatto. È in espansione, questo l'aveva già capito Hubble tanti anni fa, però con una dinamica un po' particolare. È un'espansione decelerata per la maggior parte della sua storia. Ma oggi, odiernamente, si vede che sta accelerando. Questo viene codificato in questo tipo di discorso qui, in cui noi sappiamo che l'universo, di tutto l'universo che ci circonda, il 70% è in una forma di un'energia, viene chiamata energia oscura, che è la responsabile di questa accelerazione. Di questo non sappiamo assolutamente da cosa sia composto. Il 25% è composta da una cosa che si chiama materia oscura, che è ciò che permette sostanzialmente la formazione delle galassie, dei cluster di galassie, e allo stesso tempo noi non la vediamo direttamente, non emette radiazione, ma ne sentiamo l'effetto gravitazionale, cioè vediamo che la dinamica dei sistemi nell'universo è tale per cui debba esserci un 25% del totale di materia. La materia ordinaria di cui noi siamo fatti, cioè idrogeno, elio e nuclei, che sono veramente tracce, costituisce solo il 4% del totale. Ora, se il 4% è materia ordinaria e il 25% è fatto da una forma di materia che c'è a non detto, da qui vedo subito che ho una discrepanza che mi dice che devo avere nell'universo una forma di materia oscura di tipo non barionico, cioè non ordinario. Notate che le cose ordinarie di cui noi siamo fatti, cioè protoni e elio, vabbè, i neutrini direttamente non sono fatti neutrini, gli elettroni e alcuni elementi più pesanti che ci compongono, stanno tutti da questa parte qui, cioè non arrivano a fare più del 4-5% del totale. Quindi vuol dire che questo oggetto qui è costituito in larghissima parte, 20-22%, da materia oscura che è non bariotica. E nel modello standard non c'è nulla di tutto questo. L'unica cosa che ci potrebbe essere nel modello standard di tutto questo sono i neutrini, ma i neutrini, sempre dalle misure cosmologiche più le misure sulla loro massa, ci dicono che non ce n'è più di una frazione dell'ordine del qualche per cento. Quindi necessariamente il modello standard della fisica delle particelle non descrive una delle componenti dominanti dell'universo, che è osservata da cui in modo cosmologico non viene vista agli acceleratori, ma viene vista dalla sua presenza, dal suo effetto gravitazionale sulle strutture a grande scala dell'universo. Per questi ci sono candidati di tipo non supersimmetrico, ma molti di questi candidati sono appunto di tipo supersimmetrico, in quanto perché la supersimmetria prevede l'esistenza di nuove particelle. Queste nuove particelle potrebbero essere quindi responsabili di questa materia oscura. Sono sicuramente massive, perché abbiamo visto che i limiti sperimentali dicono che questi oggetti devono essere molto pesanti, e quindi sono dei candidati naturali. Non è una spiegazione che la supersimmetria spiega la materia oscura, ma è un'indicazione dalla cosmologia che il modello standard non è materia fondamentale. Quindi, prendendo input da varie strade, noi siamo obbligati ad estendere la nostra conoscenza del modello standard. L'energia oscura che ho indicato qui è un problema ancora più grosso, perché non sarebbe nemmeno fatta di particelle ordinarie. Quindi questo è un problema ancora più grande, ma l'insieme di questi due, cioè l'esistenza di materia oscura non barionica, che è un fatto osservativo, più anche l'esistenza della materia oscura, punta nella direzione di dire che il modello standard non è materia ottima. E in particolare la supersimmetria contiene dei candidati naturali a dare questo oggetto che chiamiamo materia oscura. E poi adesso non ve lo faccio vedere, comunque c'è la possibilità all'interno dei modelli supersimmetrici di, da un lato, vedere se per esempio una di queste particelle può spiegare la materia oscura, ma dall'altro, negli ultimi 2 o 3 anni, questo tipo di osservazione è diventato fondamentale per porre limite ai modelli di supersimmetria, alternativi e complementari a quello che noi impariamo dalla fisica delle acceleratori. Quindi l'insieme delle due informazioni, forse vi faccio vedere sopra questo e poi concludo, è molto potente per poterci dire in che direzione dobbiamo andare per studiare i nostri modelli. Questi, per esempio, sono 2 parametri del modello supersimmetrico. All'interno di questo spazio, le masse delle varie particelle, i loro accoppiamenti cambiano. Ci sono dei limiti che vengono dalla fisica delle particelle, come per esempio il limite sulla massa del giargino, il limite sulla massa dell'Higgs, quindi queste regioni escluse. Limiti dovuti a processi rari in cui la supersimmetria interviene a livello quantistico per delle correzioni. Ma per esempio, soltanto in questa regione in cui io ho questo colore chiaro, azzurro chiaro, solo in questa regione il neutralino mi spiega la materia oscura dell'universo. Se sto sotto questa regione, non me la spiega. Se sto qui sopra, il modello è escluso perché predice che il neutralino dia troppa materia oscura, addirittura di più della quantità di materia totale che è nell'universo. Quindi tutta questa zona del modello è esclusa dalla cosmologia e non è ancora neanche stata toccata dalla ricerca del CERN. Quindi vedete come l'informazione che arriva da diversi campi, compresa la cosmologia, si è in grado di porre i modelli supersimmetrici. Io magari mi fermo qua, se avete domande.